canale 10. Natalino? Oia, dimmi Marco, buonasera. Ti ho sentito chiamare dall'altra stanza con il ricevitore. Cosa devi fare? Prove, controlli. No, ma per se c'era qualcuno, qua non c'è mai nessuno, boh. E adesso si è attivata un po' la banda amatoriale, per fortuna, almeno c'è qualcosa da ascoltare in VNU, capito? Vabbè, allora, qua sto tenendo il microfono a mano, cioè fili volanti, Natalia, anch'io stavo facendo roba di microfoname qua, dai, e quindi devo staccare. E K 28500 VHF VHF 7 alfa capito l'ISO. Eia, va bene Natali, da si sente quando si può. Ciao ciao ciao ciao ciao ciao. CQ canale 10. Prova. CQ canale 10. Avanti. Marcolino, ci sei? Ehi, Natali, sono qua. Dimmi cosa senti di questa timbrica, cosa te ne sembra? A me è sembrata, poi te lo dico. Ma va bene, perché? Non ti sembra cupa e barattolata? Barattolata? Mai prima d'ora. Ha un passaggio più lungo. Sì, allora ti spiego. Siccome il microfono del 5005 è andato, quasi andato, non fa contatto, non trasmette, allora ho messo quello del 3009 sul 5005, però ho dovuto dissaldare il pin 4, perché sul 5005 lì arriva tensione e se c'è il pin 4 collegato brucio tutto, quindi l'ho dissaldato e lo sto provando sul 5005. Ed è il mic originale del 3009. Ma va bene Marco, sta andando bene, non è barattolato. Oh, tu dicevi va bene, perché qua mi sentivo come rimbombante, come cupami. Qua sto parlando vicino, di lato al mic, per non sputazzarlo troppo. Vabbè, io allora la lascio così, dai. No, perché era inutilizzabile quel mic, era proprio inutilizzabile. In trasmissione, scariche continue, il PTT lo stesso aveva scariche, anche il microfono stesso. Pensa che il jack del microfono ballava nella presa microfonica, cioè gli hanno fatto quella plastica circolare, no, che entra nella femmina, l'hanno fatta sottodimensionata. Bisognerebbe cambiare quella, trovandone una bella che entri a filo. A quanti pin è? 4. Sì, 4. Poi ho avuto fortuna che la piedinatura è la stessa, 3009 e 5005 hanno la stessa piedinatura tranne il pin 4, perché in questo praticamente ci sono i controlli canali, l'autosquelch, no, quei tastini là, e quindi va disabilitato. Va bene, credevo peggio, Natali, credevo peggio. No, già sta andando, dai. Vediamo, 4 watt, eccolo. Allora, bello che sale, va bene. E trovami un difetto, è bassa, è alta, è nasale. No, va proprio bene, 5 di lusso. Buongiorno ragazzi, buongiorno Marcolino. Ciao Gianfra, dopo mille anni. E ascolta, tu che c'hai attrezzature degne di Star Trek, ne convieni, com'è la modulazione? È passabile, ottima, passabile, scadente, pessima. Ho l'impressione che sia un po' cupa. Pochino, ma occupa da essere problematico? Problematica no, perché comunque ti capisco, però rispetto a quella che mi ricordavo è decisamente cupa. Buonasera anche a Natalino. Ciao Gianfra, buonasera. Sta arrivando a bomba comunque, Marco. Sì, non so se hai ascoltato il discorso, che il mic del 5005 sta facendo le bizze, balla la spina microfonica, poi il PTT è praticamente andato, e bisogna cambiare spina, e il PTT o sostituirlo o lubrificarlo, che ne so, e ho messo quello del 3009, tutto lì, però sicuramente nel 3009 me lo occupa questa. Se volete vi faccio la riprova, così mi metto l'anima in pace e ci butto tutto nel cassonetto. Sì, è comprensibile, però non è la tua radio con la solita, che era, diciamo, secondo me tra le più chiare che potevi sentire qua. Non so se sono uscito, perché questo microfonino ogni tanto fa le bizze. Io sto usando il presidente, che devo dire funziona egregiamente. Riprendi, Natalie. Ma può provare anche con uno degli altri microfoni, degli altri apparati. Eccomi, allora stesso mic, originale del 3009 omologato, sul 3009. Vuol dire magari, o è la capsula, magari, vabbè, forse è la capsula che non va bene per quell'altro apparecchio. Allora se mi dici così si sente la differenza. Gianfra, vedi un po'. Ma devo dire che è molto migliorata rispetto a prima, adesso inizi a essere tu, è molto molto molto meno cupa. Allora non era un'impressione mia, io mi sono un po' ascoltato l'altro baracchino, però sentivo questo effetto pentolone. Sì, allora in breve il modulatore del 3009 non si batte, c'è poco da fare, non c'è apparecchio semidi che tenga. Va bene, me ne farò una ragione, vuol dire che dovrò mettere a posto l'altro mic. Ti compri lo spinotto e glielo metti. Sì, e casomai gli cambio il PTT dentro, che sono quei microfoni a saponettina, tipo il che Gianfranco ben conosce, tipo quello del, come si chiama, quello piccolo, il PNI Escort 6005, uguale, stessi tastini, canali, in più l'auto squelch, però è fatto per rompersi, ecco. Ma guarda Marco, anche questo del President è un microfonino e poi sono tutti uguali comunque oramai. Se li apri c'hanno il coso lì, un microfono a condensatore dentro. E niente, è tutto uguale. Lo puoi migliorare mettendo, togliendo la tipica spugnetta che c'hanno, che attenua parecchio, e credo che si possa anche migliorare un pochino regolando la corrente che li alimenta, tutto lì, però sono tutti uguali, non è che ci sia una capsula così, una capsula colà, oramai capsule dinamiche non ne mette più nessuno, che costano troppo, mettono queste a condensatore, piccoline, elettriche, e quindi tirano a campare così, che non vanno male, anche quelli HF grandi, oramai sono tutti così. Anzi, ti dirò di più, nel 5005 non è il condensatore, è dinamica, ancora dinamica, piccola, che non vale lo schiaffo, è una capsuletta proprio da infima qualità, dai, non è quelle capsule dei DMC 507 o quell'altro, di cui non mi viene il nome adesso, va bene, poi bello tutte queste prove, migliorie fatte per non entrare a modulare, capito? E perché non entri? Perché Marco di testa, vieni, mi chiamano, devo fare una cosa, devo farne un'altra, devo fare una commissione, cioè, così non è stare in lotta. Così. Chi voleva entrare? No, ero io. Marcolino è volubile, capito là? È impazzito e quindi non entra più. Così è, Marco. Vabbè. Alti e bassi. Gli hobby ogni tanto ti stufi. Tanto tutti gli hobby sono costosi, vabbè. Oramai la vita in generale è costosa. Natalie, riprendi. E dimmi. Ti ho rilanciato, ma oggi sei distratto, ho capito. No, è che mi ero spostato, ma... Ok. E così. Va bene, dai, Marco. Allora, bene, ben ritornato. E niente, speriamo di ascoltarci più spesso. Io vabbè, di passaggio, non è che non sono molto assiduo, Gianfranco, lo sai. Va bene così. Ma comunque è questione di impedenza, probabilmente. Ho un modulatore dell'apparecchio, vedi? Siamo tutti uguali, ma non sono tutti uguali dentro poi. Tanto più che l'altro SMD. Beh sì, oramai sono tutti SMD, anche questo che sto usando è tutto piccolissimo dentro, eccetera, anche se l'apparecchio è grande. Non mi ricordo neanche come si chiama, aspetta. President Lincoln, due mi sembra. Sì, Lincoln 2 più, c'ha scritto. Devo dire che però mi hanno detto che di radio esce abbastanza bene. Sì, già va bene. Oggi c'è anche preparazione, con questo tempo si sentono modulazioni lontane. È vero. Allora, va bene, sono ritornato al 5005 con Lafayette DMC 507. E così finiamo se prove, non voglio monopolizzare il canale, se entra qualcuno, tanto adesso stacco e devo fare mille commissioni. E quindi vediamo se meno occupa del microfono del 3009. 5005 con apparecchio, con microfono DMC 507. Vediamo se meno occupa. Sì, adesso la tua. Rispetto a quel barattolo iniziale, adesso è ampiamente comprensibile. Allora faccio la colata di resina ipossidica, dai, qua, questo microfono deve stare qua, e boh. Il 3009 si tiene il suo originale. Scappa poi fino a... Comunque è comodo avere i tastini, i canali al microfono, l'autosquelch, quindi quello lo metterò un po' a posto. E vabbè. Quell'altro giorno nel frattempo si è rovinato l'ennesimo microfonino, quel Polmar ZX40 piccolo, quelle guaine microfoniche, cioè quelle piccole, sottili, spaccata, tipo taglierino, sembra spaccata. Anche lì l'ho dovuta un po' mettere a posto col vulcanizzante. Sempre alla base del mic si spaccano poi quelle guaine. Ascolta, non mi dire che anche a te ti stanno letteralmente screpolando i cavi del microfono. Sì, soprattutto questi nuovi apparati, questi che hanno, allora la guaina prima di tutto è di dimensioni ridotte, mentre i microfoni tipo 3009 avevano il cordone microfonico tipo 7-8 mm, spesso le fai 7, dai. Queste nuove sono sottili, sono a occhiometro quanto può essere, 5 mm, 4,5, 5, sì. E sono fatte di una mescola che si spacca, perde elasticità. Addirittura in un intake di quelli veicolari omologati mi si era fatta in briciole la guaina, tutta in briciole, cioè senza usarla, era rimasto tanto tempo in una busta e la guaina si è frammentata tipo pane carasau. Sì, è un problema che conosco bene, purtroppo, conosco bene. Tu figurati che io avevo comprato dei microfoni, quelli piccolini per i portatili, ed erano in busta, c'erano nel cassetto, non mi ricordavo neanche di averlo. E ho preso il microfono dei portatili, l'ho tolto fuori e mi è rimasto in mano. È rimasto il cavo interno, tutto l'altro si sbriciolava. Stessa cosa l'apparato che c'ho in macchina. Evidentemente è una mescola a bassissima durata che col tempo, con l'umidità, anche con la stessa aria, si sbriciola e non ti rimane niente. Quindi, ma così, guarda, mi sta capitando con tanti materiali, materiali idraulici, materiali plastici, antenne, non ne parliamo, proprio fatte male, che ti durano oramai neanche anni, ti durano mesi. Sì, guarda, cioè bisogna essere proprio diabolici per progettare roba che si romperà a breve, che si rovinerà a breve, per carità. Caspita, vedo l'ora, è tardi, qua bisogna agire. Natalino, riprendi, io adesso un minuto e vi stacco poi. Vai Natalino. E cappa, sì, è vero. Ma queste antenne della Diamond che stavi dicendo che si rompono così, boh. Sì, perché c'è carenza di materiale oramai, capito? Il materiale non basta più. Cioè ne consumiamo troppo per tante cose, il rame, soprattutto il rame è diventato come l'oro. Su molte antenne televisive puoi notare ad esempio che il rame non è rame, spesso rimane molto molto rigido, c'è una componente di ferro, quindi oramai stiamo andando e peggiorando. Proprio perché c'è un consumismo esasperato che sta consumando tutte le risorse. Vuol dire che ci dovremmo accontentare di quello che ci abbiamo e quello che non funziona, come al solito, finirà nel cassonetto. Cosa vuoi che ti dica? Mi sa che bisogna autocostruircele le antenne per non avere quelle lì. Sì, io me le costruisco infatti. A parte la Game Master che mi ha meravigliato che è rimasta in piedi, anche oggi era piegata e ha pigliato certi schiaffoni micidiali. Io ero fuori e con certe raffiche facevo fatica a camminare anche. Mentre invece quelle nuove, le Diamond, che sono più nuove, una è morta, la devo togliere proprio per vedere cosa diavolo è successo. E l'altra, che è di un'altra marca, tra l'altro prestigiosa, la Comet, nuova, cioè non ha neanche 6 mesi. Anche quella c'ha qualche problema, gli strumenti indicano che non sta andando bene. Quindi, non ne capisci né tu cosa sta succedendo. E io che stavo per chiederti com'era il Comet, perché leggendo qua e là avevo sentito dire, insomma ho letto che erano un po' superiori le Diamond, fatte un po' meglio, più costose magari, invece già, insomma, anche quelle, e fa modelli similari tipo X50, X300, no? Comet cos'è, americana, vero? No, credo che sia anche lì giapponese. No, guarda, le Comet erano antenne formidabili, più costose, tutto quello che ti pare, però fatte bene, però oramai mi sa che sono messi tutti d'accordo a fare porcherie. Cosa vuoi che ti dica? Io so solo che mi ho costruito una direttiva per UHF che su il vento non le ha fatto niente, le stazionarie sono perfette, insomma non mi è costata niente perché me la sono fatta io con pezzi d'alluminio e un pezzo di plastica. Ti posso assicurare che picchiava anche la 510 che era molto molto più in alto, ma quella lì c'era un guadagno, quella di, o meglio c'ha perché ancora su, che è veramente notevole. Quindi sì, Natalino c'ha ragione, è meglio farsele e metterci quello che vuoi tu, anche perché così almeno te le puoi riparare. Sì, infatti, io ne ho una su che ho costruito io e sta sempre andando e me la uso per il ricevitore. Oh, E che cosa hai fatto, Nantali? Cosa hai fatto? In che tipo è, verticale, orizzontale, di polo? Cos'è? A V, a L, a M? No, la verticale è, in prima visione, è una verticale piccolina, è quella che ti arrivava a fondo scala. Ah, ma risuona in HF praticamente. Il ricevitore me la uso, capito? E ascolto con quella. Sì, sì. No, stavo pensando, io avevo poi lasciato perdere il discorso MLA 30 Plus con la specie di cerchio, come si chiama, la loop magnetica, con l'amplificatorino, lo volevo mettere sul tetto, ma c'è troppa metratura di cavo, non... Cioè, praticamente io con il ricevitore HF ascolto con la 5 ottavi e l'altro giorno in 40 metri c'era un bel po' di movimento. Quant'era? 2 o 3 giorni fa, era una giornata, mi pare, abbastanza bella, per non dire meravigliosa, una bella propagazione, 20-40 metri, poi ha cominciato, vabbè, già a metà serata a abbassarsi, sicuramente salita in 80. E infatti, io adesso in HF ascolto male perché la 5 ottavi che ho è troppo bassa, capito? Sto aspettando di poter piazzare quella là. Però guarda, se piazzi la Game Master sappi che ha banda chiusa, quindi non pensare ad ascoltare bene in 40, ancor peggio in 80 e forse neanche in 14. No, ma ci salgo su un dipolo per i 40, capito? È la cosa migliore. Mentre invece verso l'alto è più tranquilla, solo verso l'alto sono solo militari, quindi non te ne frega molto. Io invece ho costruito, ce l'ho qua, la devo ancora colorare, l'ho solo misurata un pochino. C'è una super J-Pol, la sto facendo in alluminio. E lavora bene, ovviamente, con HF, con uno in uno di stazionari, è un return loss abbastanza basso. E poi in UHF stranamente cade proprio, non ho capito perché, in banda 446, quindi a tutti gli effetti una B-banda, anche se il 446 non è che ci interessino più di tanto, però insomma si prende quel che si ha. Lo so, ma ne hanno fatto una che aveva tre stili di J-Pol B-banda. Tre, Natali, tre stili? Eia! Sì, sì, quella è quella che c'ha lo stilo per UHF, ma perde parecchio, non è molto consigliata. Io invece sto facendo la Super J-Pol, che è una collineare, praticamente alta 2,5 metri, 3 metri. E c'ha più guadagno della, ovviamente, la J-Pol, essendo un'antenna, è come avere due antenne una sopra l'altra, collegate in parallelo praticamente, anzi no, in serie, scusa. Io ho capito. Bene, visto l'orario devo scappare. Ok, ciao Gianfranco, grazie ai controlli. Natalino, idem con patate. Almeno metto l'animo in pace, questo mic va qua, punto. Perdo la funzione canali autosquelch, purtroppo anche l'autosquelch era comodo, perché quando c'è propagazione che vai e viene, devi stare con lo squelch, alza, abbassa, e ti perdi le stazioni basse, vabbè. Ok, buona serata a tutti e alle prossime, ci sentiamo fra altri 20 anni. Ciao a tutti, vai Gianfranco. Non esagerare troppo, Marco, perché insomma... noi abbiamo già una certa età, sì, mi farebbe piacere tra 20 anni, però sai com'è il percorso della vita, con alti e bassi, anche questo bisogna metterlo in conto. Riprendi Natalia. Cata Gianfra, deve essere che abbiamo qualche proprietà telepatica io e tu, mi hai tolto le parole di bocca. No, siccome ogni tanto passa sull'altro canale qualche mio collega, è sempre più giovane, e quindi insomma lungo quest'anno di gente giovane ne abbiamo perduti parecchie, quindi purtroppo bisogna anche mettere in conto queste cose. Tu non so quanti anni hai, Marco, però insomma tienilo in conto. Intorno ai 50, da, potrebbero essere più, potrebbero essere meno, potrebbero essere anche 50 tondi. E aspetta che mi tocco, per sicurezza, non per... sai, ciao a tutti, scappo, credito esecutivo, ciao. Buon Natale. Ciao Marco, buon proseguo, da. Anche a me farebbe piacere ascoltarti, fa 20 anni, ma non so se campo fino a tanto, capito? Purtroppo è così, molta gente, anche giustamente per carità, non ci pensa, però è così. Ciao Marco, alle prossime fatti sentire, non ti nascondere nella solitudine. È così, è Natale, oramai, come si dice, mai dire mai, perché quella signora molto molto vecchia è sempre dietro l'angolo, che aspetta qualcuno. Natalino, come è? Vai, pedivella, vai, che ci hai abbandonato. Già vi ascolto, io intanto già passo a salutare, dai. Lei non ha giù gana, Natalino, credi, non ha giù gana, devi stare qua e devi stare la sua parte. E che a volte ci mettiamo anche con Gianfranco, con Roberto a fare due chiacchiere. Non sto soltanto a Francesco o Francesco di Albero, tanto non lo sentivo, però avevo il volume basso anche qua, stavo, saluto anche a Marco che è uscito. Siamo qua, avanti Gianfra. Finché ci lasciano siamo qua, sì. Speriamo bene, cosa vuoi ti dica? Perché Marco ci ha detto ci vediamo tra 20 anni, adesso è tra 20 anni, chi lo sa, chi mai può dire tra 20 anni, quanto sono, fammi fare il conto, sono 85 anni, quindi no, non lo so, arrivarci non è così semplice. E infatti, non è semplice, no, infatti è così, vabbè, e tu Natali, tutto a posto? Infatti glielo stavamo dicendo a Marco che noi abbiamo una certa età, mi farebbe piacere sentirlo prima dei 20 anni, perché non lo so se campo gli ha detto. Non so mai, io ho 62, voi avete qualche anno in più, ma siamo sempre grandetti rispetto a lui, quindi non è che la matematica è un'opinione. Tra 20 anni sono 82 per me, 86 per voi, e quindi insomma dobbiamo stare molto, molto attenti, abbiamo già superato gli 80, perciò se lui vuole ci può lasciare, se no faccia come vuole, a noi lo dicono HTCOMETECLERETE. Oh Claudio. Dica. No, anche perché poi, al dunque, se lui chiama e noi, nonostante non ci siamo, le rispondiamo, magari si spaventa e ne prende un colpo, non sa mai che anche lassù ci abbia qualche antenna, qualche apparato radio, sai. Si conferma, da lì esci forte, caspita, da lì si spara forte, se mettiamo qualche antenna lì, anche lì, non abbiamo problemi, Lì non ce n'è problemi, no. Si conferma, dice quello. E quindi Gianfra, dammi un secondo che mi sta chiamando moglie per la giambola, per preparare la cena, che fammi sera la stessa storia. Sempre a me fornelli che... Stai attento che adesso c'hanno il mattarello per sicurezza, che non te lo tiri in testa, quindi obbedisci agli ordini e vai. Riprendi Natali. C'è un amico che è così lo stesso, che si lamenta sempre, però va sempre, fa i lavori e tutto, e lui si lamenta sempre, però deve essere che la teme. ma tanto fare l'irriminata lì, adesso a prescindere da che te lo dica la moglie o che non te lo dica nessuno, però se vuoi mantenere le cose, soprattutto in campagna, se non ti dai da fare guai, perché oggi come oggi diventa impossibile, diventa un lusso veramente grosso. Perché ogni tanto c'è da mettere mano a qualcosa, perché le cose si rompono. Se per ogni cosa chiami il muratore, l'elettricista, l'idraulico, con le pensioni e gli stipendi che ci sono adesso, fai ben poco, fai molto molto poco. Fai molto poco anche se sei in appartamento, perché di lì, con i condomini che si sentono in giro, con i prezzi di condominio, cioè da stare poco allegri. Quindi o con una cosa o con l'altra, sempre quella la storia. E infatti, poi in campagna c'è sempre da fare, non c'è Cristo che tenga. Se sei in appartamento, la casa non è mai tua, perché devi pagare il condominio che è un affitto, e siamo peggio di prima. Sì, prima i poveri erano quelli che non c'avevano lavoro, adesso stiamo andando talmente verso il basso che anche chi c'ha lavoro e soprattutto chi ha figli deve stare molto ma molto attento. Ho colleghi che veramente sono costretti a centellinare, perché magari hanno tre figli e quello deve studiare, e l'altro è all'università, e l'altro ancora ne servono tante cose, quindi insomma gli stipendi sono sempre stessi. Purtroppo è così, come diceva quello lì, siamo nati per soffrire e stiamo soffrendo, ma parecchio. Cosa ci vuoi fare? Caro Natalino, è così. E infatti, prima erano i poveri, quelli che non avevano lavoro solo, e invece siamo tutti così, stiamo scendendo verso il basso tutti. E non so fin dove arriva il fondo, quello non so quanto ci siamo lontani dal fondo, però a un certo punto nata lì. Oramai noi abbiamo dato, abbiamo fatto, quindi aspettiamo, stiamo a guardare, altro tanto non puoi fare, e pregarci la salute, ma anche quella mi pare che piano piano sta andando per conto suo. Infatti, io sto pensando a quelli che hanno figli, quelli lì hanno la vita difficile veramente, cavolo, ci sono troppe spese oggi. Sì, troppe. In questo periodo poi sta aumentando tutto veramente. E mi ricordo che, non so se era 5 anni fa o 6 anni fa, te lo ricordi Natalia, che stavano lamentando i supermercati che la gente non andava più a comprare. Mi sa che adesso si lamenteranno ancora di più, perché molte attività chiuderanno proprio perché le mancheranno i clienti. Non perché non ci vogliono andare, ma proprio perché da qualche parte i soldi per il riscaldamento, per la benzina, per quelle cose lì devono uscire. Soprattutto anche per andare a lavorare, perché molti hanno un lavoro lontano e quindi si devono allontanare parecchio. È così. E non sono solo i soldi, no. E anche la paura di andare, di uscire con questa cavolo di disgrazia che ci è capitata tra capo e collo. Oh, ci sono ristoratori, dice che non stanno facendo manco i soldi dell'acqua, perché non ci va nessuno più in ristorante. Prima erano abituati la gente a andare, adesso non ci va, anche per paura, non è solo per i soldi. Sì, ma non ci vai a prescindere adesso, anche se passa questa pandemia, va bene, ma penso che ci vorranno anni prima che la gente si riavvicini ai ristoranti e a tutte quelle attività lì che prima facevamo, non dico una volta alla settimana, ma quasi. perché proprio inizi a guardare che al mese hai speso 100 euro in più in benzina, che hai speso altri 100 euro in più in corrente elettrica e così via, insomma ti fai il giretto dei conti e ti preoccupi e inizi a dire il ristorante me lo faccio in casa e buono, secchio. Pizza, no, oggi non la prendo, mi mangio quella che ho preso al supermercato, ma la faccio io e buonanotte, perché andare anche a arrivare alla pizzeria, che ne so, se ti costa 10 euro, quei 2 euro, 3 euro di benzina ce li rimetti. E quindi si fa questo giro di conti ed è così, c'è poco da fare. Come ha detto Claudio, purtroppo la matematica non è un'opinione, se la cifra è quella, man mano che le rodi e che i costi sono sempre più alti, mi dispiace per quelli che c'ha nel bar, mi dispiace per chi c'ha i ristoranti, però se non te lo puoi permettere, non te lo puoi permettere, c'è niente da fare. E adesso già sono un giorno che non ci vado più al bar, prima tutte le mattine andavo a prendermi il caffè così, invece adesso chissà da quando sono. Infatti, guarda, io ti posso dire, ho fatto già un calcolo, in bar mensilmente io lasciavo tra i 25 e i 30 euro per la sola colazione. Adesso anch'io mi sono convertito alla macchinetta da caffè, mi faccio la colazione, mi faccio il caffè dopo pranzo e al posto di spenderne 25, cioè 25 mi riferisco solo a bar, se poi calcolo la benzina che mi serviva per andare in città e fare, allora le cifre diventano veramente importanti. E quindi me lo faccio qua e risparmio. Cosa devi fare, Natale? Da qualche parte, ripeto, i soldi per le altre cose devono uscire. E poi, se ti sei accorto, sono aumentando tutto. E succede come era successo, ripeto, 5 anni fa, che la gente aveva smesso di andare ai supermercati. Ci andava, prima spendeva 100 e poi eravamo tutti a 15 euro, 20 euro, giusto l'essenziale, pane e pasta, niente carne, niente frutta. Lo so, e purtroppo adesso le attività, diciamo così, se la stanno passando male, anche per la pandemia pure, perché molta gente non ci va per paura, per gli assembramenti e tutto quanto, oltre che per i soldi. Adesso in più sta aumentando tutto, molte attività chiuderanno sicuramente, non ce la fanno andare avanti. È ovvio, è una legge matematica, come fa ad andare avanti se non sono 20? Guarda, io ieri sono passato anche dai cinesi a prendere del materiale, della roba, così, che loro c'hanno e gli altri non hanno, ma anche loro hanno aumentato i prezzi, quindi c'è sempre meno gente anche da loro. Questo penso sia già un segnale preoccupante, perché vedi anche lì a posto di esserci 20 macchine ce ne sono 3 o 4, anche andando alla Conad, quella di Predagneda, prima era non trovare il posteggio, adesso a tutte le ore comunque lo trovi, cioè, sono tutti segnali che ti dicono che qualcosa non sta funzionando, che stanno arrivando tempi veramente tristi. Ti preoccupa anche il fatto che ti stanno facendo i conti in tasca, capito? Che dicono che oramai gli italiani hanno tutti un bel gruzzolo in banca, speriamo che qualcuno venga all'idea di metterci sopra le mani. E infatti anche i conti in tasca ci vogliono, non solo l'altro, e a pagare con la carta di credito ti stanno obbligando per controllarti meglio. No, su quello sono favorevole, almeno si riesce a pagare tutte le tasse in maniera giusta, perché c'è gente, non so se l'hai visto, anche per i contributi per la ristrutturazione che hanno fatto i furbi, ma molti li hanno pizzicati, meno male, e quindi è meglio che quelle cose lì rimangano, anzi che vengano estese a tutto. Io sono anni che pago la carta e personalmente non mi fa né caldo né freddo, tanto sanno benissimo cosa c'ho, sanno benissimo quanto prendo lo stipendio, perché me non lo danno loro. Io vedo solo quello che si tengono, che è parecchio, e quindi mi dà fastidio vedere persone che non pagano quello che paghiamo noi di tasse, anzi non pagano affatto le tasse, e poi vanno per primi a rompere le scatole, che vogliono la sanità, vogliono questo, vogliono quell'altro, capito, a spese degli altri. E di questi purtroppo ce ne sono molti, e ne hanno scovato tanti che non hanno mai pagato un citto. Ed è ingiusto anche nei confronti di chi magari fa commercio, fa cose che paga fino all'ultimo centesimo, perché sono onesti, capito? Già lo so, anch'io, io quando lavoravo al comune lo stesso, sapevo quanto pagavo, ed erano molti soldi che ti trattenevano buzzinosi. È così, e poi noi siamo fermi da tantissimo, veramente, è tutto fermo da tanto, senza contratti, senza niente, non esiste più, non esistono più regole, non me ne frega niente a nessuno, che ci sei o che non ci sei. Dicono dobbiamo assumere non so quanto, tutta una manica di vecchi, siamo diventati più vecchi rincoglioniti d'Europa. Cioè abbiamo una pubblica amministrazione, poliziotti, carabinieri, eccetera, tutti vecchi, ma come fai a quell'età andare a inseguire un delinquente, a cosa? Ma gatti rubati va, anche i vigili del fuoco, stessa cosa, meno male, di lì sono riusciti almeno a avere uno straccio di contratto, perché era fermo da anni anche quello di loro, rischiando la pelle, eccetera, ma vabbè, comunque, come diceva quello, tiriamo a campanata lì, tanto. E infatti, che poi noi riguardo alle carte di Cristo siamo indietro di chissà quanti millenni. C'era un amico mio che lavorava in Olanda, già allora, mi sembra 30 anni fa, dice che lui in banca non ci andava mai, e quando andava a fila non ne trovava. Sì, infatti, guarda, perché qua c'è anche, cioè se ce lo dobbiamo dire tutta, c'è anche un livello di ignoranza un po' esagerato, perché senti la carta qua, la carta là, poi va a vedere, le chiedi ma con che compagnia telefonica sei, quella sì, buona, quanto paghi? 20 euro al mese, e te ne cadono le braccia. Oh, yeah. E questi sono quelli furbini. Infatti, dice, a noi ci toglievano tutto dalla banca, dice, affitto, gas, elettricità, tutte le bollette le pagavano dalla banca, già da allora, dice che loro in banca non ci andavano mai, se non è proprio perché li chiamavano qualche cosa, però loro, dice, non ce n'era neanche fila, qua non ci puoi manco andare negli uffici e nelle cose, dalle poste non puoi andare, a chi vuole una villa, dice là era tutta un'altra cosa, e lavorava in Olanda questo amico mio, alla Stanley, dove fanno i cacciaviti, questi scalpelli, tutta questa roba qui lavorava. Sì, ma qua per ogni cosa che fai subito c'è l'intelligentone che entra a contestarla, dicendo ma non è così, ma fai così, ma vai e metti all'asino. Ma vabbè. Ok, Natalie, ti devo andare perché anche se ne ho fugliate fucino, ma chi ne ho fuori a chiudere tutto, cioè adesso è un freddo, adesso che non è, mi guarda, adesso non c'è un alito di vento, sembra fatta apposta, veramente è una cosa che non posso sopportare, guarda. La mattina, la sera bruciate, letteralmente bruciate, e l'antenna è di lì, tutta è fasciata. E io, se voglio fare qualcosa, dovrei salire di notte a troncarmi l'osso del collo, che non c'è vento, ma te le immagini, in compenso qui ci sarà un umido, la paura. Oi, oi. Beh, vabbè, vediamo cosa succede domani, là. Natalì, se ci lascia tranquilli. Tu non hai fatto niente, no? No, io non ho fatto niente, devo ancora fare delle visite e cose per portare tutto alla diabetologa e quindi non ho fatto niente perché sono impegnato, mia domani c'ho la visita al cardiologo e vediamo un po', gli devo portare tutte le cartelle cliniche di quando sono stato ricoverato in cardiologia perché lui le vuole vedere e vediamo un po' adesso, perché mi hanno trovato la pressione alta, capito? E glielo dico che la mia dottoressa mi ha detto che non sto prendendo una pastiglia che non me l'aveva ordinata il dottore che avevo prima, capito? Quello che è deceduto, e me l'ha detto la dottoressa, adesso gli dico mi faccia la cura lì nuova e vediamo un po' come va sta pressione. Io oramai neanche la controllo, tanto sarà alle stelle, secondo me così mi tocca andare dal gommista. Va bene Natali, dai, ti lascio, stammi bene, alle prossime, buona serata, e come diceva quello, prima della salute è la cosa più importante. Ciao ciao Natali. Ciao ciao, approfittane, ci sentiamo alle prossime, Gianfranco. Va bene, io rimango in quel Rix, alle prossime. E ogni tanto ascoltaci, quando siamo su e ti mandiamo i saluti. Natalino SWPOL, ciao. Ciao ciao, già vi ascolto, ciao. Nessuno? Canale 10, 1, 2, 3, prova, 10, 1, 2, 3, prova, canale 10, canale 10, dovrebbe essere potenza, sì, 1, 2, 10, addirittura, 1, 2, 3, 4, 5, c'è nessuno per una prova? 1, 2, 3, 1, 2, 10, c'è nessuno, 1, 2, 3, 4, 10, 10, 20, 30, 1, 2, 3, canale 10, tutti morti, quando servite non c'è nessuno, 10, ma no. Nessuno? 10? Ciao Fabrizio, c'è qualcosa? Sì, ciao Gianfra, ascolta, sto terminando una radio, cioè l'ho terminata, più o meno, dai, e mi serviva prima di tutto come sto uscendo di radio, è un 4.40 per capirci, dai. Dunque, ovviamente sei comprensibile, il segnale non ho fatto in tempo a controllarlo e sotto c'è un rumore di fondo che non so se sia dovuto a un'amplificazione un po' alta o se c'è qualcosa da attaccato che fa rumore particolare. Sì Gianfra, qua c'ho sempre vento, adesso è abbassato. qui già lo sai che qui in stazione abbiamo sempre vento, adesso è abbassato, non so se è troppo basso magari il Mickey Gain. No, per me va bene, è l'ideale. Fammi vedere il segnale, ti posso dire, mi è sembrato un 9 spiccioli. Il segnale non è un problema, il segnale sicuramente sta arrivando, sollevo leggermente, ma il segnale credo che stia arrivando abbastanza bene, come sempre, dai, il segnale è quello, a prescindere che esco con 5 watt o con 30, più o meno siamo lì, dai, era giusto, se la radio era comprensibile. Sì, sì, mi sono sbagliato io, c'erano molti spiccioli perché era 9.30. Sì, la radio adesso è, per me va benissimo. Ascolta, posso fare una prova, un passaggio in USB? Si può fare? Sei operativo qua? Sì, io sono operativo, però non... tieni presente che è un baracchino questo, quindi... No. Se è solo per la radio può andare bene. Se vuoi, quando vuoi, dimmelo. Dai, allora facciamo una cosa, prima facciamo un passaggio in FM, che così faccio un po' di prove, perché mi è entrata troppe volte in mano 2000 falsi contatti. Aspetta, abbassiamo, dai. Allora guarda un attimino, vado in FM. Ok, FM. Allora, aspetta, ti abbasso un po', ecco, così a te piace di più, giusto? Il problema. Ecco qua, magari così, aspetta, abbasso un altro po'. Il problema è che questa radio ogni volta abbassiamo un altro po', ecco qua, il problema è che questa radio ti cascano da un punto vai poi a mettere mano su ed è tutta, cioè alla fine non ne voglio più fare per quello, perché non ne posso più. No, poi era un problema strano, perché non ho capito cosa poteva essere in FM, l'FM insomma è abbastanza semplice, una volta regolata la deviazione si accavalla, non è neanche tanto una questione di potenza, però di lì sembrava che il QRM fosse salito col tuo segnale e disturbasse praticamente la modulazione. Sì, qualche problema.